Buon pomeriggio Tornizzoli, sono Eleonora Savona, la ragazza della Fondazione Basso, ci siamo sentiti l'altra settimana, si ricorda? Sì, benissimo. Ok, perfetto. È già in treno, è pronto, posso iniziare a fare qualche domanda? Sul viaggio, sì. Ok, perfetto. Vabbè, niente, io volevo iniziare chiedendo quando effettivamente lei ha iniziato a interessarsi al problema, al fenomeno dei blog pro Ana e pro Mia. La data esatta, francamente, è un po' imbarazzo, ma la pubblicazione del report, della ricerca fatta all'inizio del 2004, quindi l'inizio di attenzione all'argomento è una cosa del 2002. Ok, e crede che il numero da allora a oggi, il numero di questi blog e forum è aumentato? Non ho nessun motivo per pensare differentemente, non è che abbia fatto delle indagini sulla rete, ma non c'è nessun motivo per cui si possa pensare che il fenomeno sia ridotto. Ok, e perché crede che nascano questo tipo di blog? Questo è francamente una domanda, nel senso che ci sono molti perché. Ci sono molti perché. Il modo è anche quello di far vedere la propria sofferenza, quindi è un modo per esibire il proprio stato, ma un modo anche per cercare di esaltare il proprio stato, quindi ancora una volta esibire, ma non più come urlo implicito di aiuto, come esibizione di un successo. Come tante volte capita quando vedendo nei blog vi è una rincorsa a chi ha un tasso di magrezza maggiore o chi è in grado di far passare oggetti più grandi, tipo palline da tennis, tra le cosce. Ah, oddio. Bene. No, infatti leggevamo quindi nella tesi di appunto Agostino Giovannini che parla proprio di una filosofia di Ana. Quindi le ragazze si. La radice non è più solo i motivi per cui oggi lo si fa, ma quando una cosa nacque, nacque come contestazione, come fenomeno alternativo che voleva fare delle caratteristiche di quelli che sono i sintomi della sofferenza e dei disturbi alimentari un cartello, quindi una esibizione, come dicevo prima, con un vero e proprio credo che ha portato a formulare il credo pro Ana, con tutto il decalogo che lei conosce. Ok, ma c'è una differenza tra l'essere anoressiche ed essere delle adepte di Ana, come si definiscono queste ragazze? Certamente c'è una differenza, nel senso che si può essere adepti di una filosofia senza avere gli elementi che consentono l'emissione di una diagnosi di anoressia nervosa, anche se diventa veramente così forte per te l'identificazione con il modello anoressia, è molto probabile che questo poi si possa riscontrare anche nel tuo funzionamento e nel tuo corpo. Ok, e che relazioni si creano tra le ragazze all'interno di questi gruppi, ad esempio blog, forum, anche chat, perché abbiamo visto che adesso esistono anche delle chat su WhatsApp. Sì, no, che relazioni e che legami si creano tra le ragazze all'interno di questi gruppi? Come sempre, l'appartenere a un gruppo, cioè la sensazione di condividere valore e di condividere una ragione di legame con delle altre persone che avviene nel mondo virtuale e quindi non è detto che si traduca in corrispettivo nel mondo fisico, ma la sensazione di avere un'identità e di appartenere a un gruppo. Ok, e come avviene il passaggio dalla semplice condivisione delle proprie esperienze all'istigazione all'anoressia? Nel senso, il fenomeno, diciamo, di condivisione della propria esperienza, della propria sofferenza è necessariamente negativo? Penso che anche quello è un modo per esprimere la propria sofferenza, tant'è che l'ho detto molte volte, agli operatori fa bene sapere che esistono questi luoghi, fa bene discuterne con i propri assistiti, quindi fa bene non avere ipocrisia o tabù, e fa bene a cercare di consultare questi stessi luoghi per rendersi conto del tipo di contenuti, di linguaggio dei propri assistiti. Mm-hmm. L'induzione accade nel momento in cui qualcuno cerca di far sì che nell'altro ci sia una scelta di carattere patologico, ma se tu frequenti l'ambiente proana, cioè l'induzione è della cultura stessa del luogo d'appartenenza, non è tanto un'iniziativa di un soggetto, diciamo, maligno che vuole instillarti una patologia, la tua adesione a un gruppo proana, che è la premessa per la costruzione di una patologia se non c'è già. Mm-hmm. Ok. Quindi qua si lega all'altra domanda, cioè le chiedo un parere sulle proposte di legge che sono state fatte riguardo all'inserimento dell'articolo 580 bis, quindi quello dell'istigazione all'anoressia, in merito anche al blog. Molte proposte di legge citano la mia ricerca e ovviamente questo mi lusinga, no? Beh, certo. Però non ho mai pensato che fosse una soluzione attraverso le proibizioni, attraverso la legge, non ho mai creduto, non lo credo neppure per quello che riguarda altri costumi, altre induzioni, altre dipendenze. Mm-hmm. Penso che sia un grande problema educativo e che quindi debbano essere informati gli operatori, ma anche i familiari, ma anche i cittadini tutti, dell'esistenza di questi ambienti e che l'interdizione a questi ambienti è un'interdizione di tipo culturale, valoriale, non è attraverso un impedimento giuridico, che tra l'altro non ho mai capito bene se poi possa eventualmente funzionare, perché tu fai una chat su un server, non so, delle Filippine, non so se come possa essere intercettato dalla legge italiana. No, infatti un problema, diciamo, riguardo a queste proposte di legge era la pena da attribuire appunto all'istigatore o all'istigatrice alla malattia. Perché ci sia una vera e propria istigazione, esatto. Perché ci siano delle circostanze per cui c'è un tale o un gruppo che vuole far sì che altri organizzino la propria personalità dentro a un disturbo alimentare grave, tipo l'anoressia nervosa. E c'è dall'altra parte un tal'altro o una tal'altra che ha una condizione di inferiorità psicologica, si fa suggestionare e finisce con l'essere condizionato nella costruzione della propria modalità di rapporto col cibo e col peso. È ovvio che questo può valere nel caso esclusivo in cui ci sia una persona non completamente capace di intendere di volere. Al più, allargando il concetto, si può pensare nei confronti di una persona molto giovane, ma nei confronti di una ragazza già maggiorenne la possibilità che ci sia qualcuno che faccia un'induzione riguarda solo coloro le quali hanno la grave psicopatologia preesistente, quindi un'incapacità a intendere e volere prima dell'organizzazione del disturbo alimentare, e nel caso risulta molto improbabile ci sia una persona incapace di intendere di volere che non ha fatto una scelta o ha già un'organizzazione tipo anoressico e che venendo condizionato da un esterno lo faccia. Questo è molto improbabile perché la scelta dell'anoressia nervosa richiede un impegno cognitivo, valoriale, di energia psichica tale che non può essere fatto con la sola induzione. Forse qualche ragazzina molto più giovane può essere sedotta da qualche mito appunto di magrezza e in questo senso favorito un suo avvicinamento all'anoressia nervosa, ma non l'espressione di una vera e propria anoressia nervosa. L'anoressia nervosa è una cosa gravissima, difficilissima, complicatissima, che richiede un sacco di energie psichiche e non basta un imbonitore o un guru a far sì che qualcuno la organizzi. Beh, sì, certo. Ma quindi secondo lei, diciamo, un modo per affrontare questo problema dei blog e dei forum a livello normativo esiste o è solo, diciamo, a livello culturale? Esiste a livello normativo, dando mezzi alle scuole, agli ambienti della formazione, affinché ci sia formazione, conoscenza, facilitazione del dialogo su questi temi con i giovani e quindi tutta di iniziative di carattere educativo, sanitario e preventivo fatto e con i mondi della formazione, per cui la scuola, le parrocchie, insomma, e con le famiglie. Ah certo, una legge che dicesse queste cose serve a incrementare appunto la prevenzione e l'educazione. Ok, quindi la proposta di legge dovrebbe più spostarsi verso questo fronte piuttosto che su un fronte proibizionista. Assolutamente. E ritiene che l'Italia a livello, in questo caso, di associazioni e di organizzazioni private sta facendo un qualcosa di efficace per risolvere questa situazione? L'Italia è questo paese incredibile, molto geopartizzato, in cui si trovano praticamente quasi uno di fianco all'altro situazioni di eccellenza con situazioni di abbandono e trasprotetta, per cui l'Italia sembra un po' il polo di Trilussa. Quindi ci sono molte realtà che fanno molte cose molto, molto positivamente, e ci sono molte realtà in cui non si fa assolutamente nulla. Ok, e ci può fare un esempio di eccellenza? Così mi spiace, perché fare un esempio e fare un torto a tanti altri che sono altrettanto validi, però per quel che mi risulta, per dirne una, nell'area della Toscana centrale attorno a Montecatini, Pisa, c'è questa attività delle città sane, c'è questa attività di una serie di soggetti del privato sociale, del volontariato, muovono con molta intensità sui temi della prevenzione, dell'intercettazione precoce, del trattamento di disturbi alimentari, che possono essere benissimo un riferimento per tante altre realtà. E cito due persone, la dottoressa Guidi e il dottor Gravina, per dirle, due persone bravissime che operano una a Montecatini e l'altra a Pisa, che possono essere un riferimento. Io mi rendo conto di aver fatto una grande ingiustizia, perché dovrei citare altre persone di Pordenone, di Treviso. Però torniamo al discorso che l'Italia è questo luogo così geopartizzato, per cui a fianco di realtà molto positive come queste che ho appena citato, altre invece non hanno lo stesso tipo di attenzione, anzi forse non ne hanno per nulla. Ok, senti, invece per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la cura per i disturbi del comportamento alimentare? Non è molto diversa. C'è un governo che ha emesso delle linee, sì, ovviamente il sistema sanitario è regionalizzato e le regioni si muovono tra quelle che sono più attive e hanno fatto delle politiche di costruzione del sistema sanitario col sistema rete di servizi più organico. Il Veneto, anche qui ne faccio una citazione, il Veneto è una regione che potrebbe essere a riferimento, ha sicuramente una programmazione sanitaria avanzata, altre regioni non hanno fatto niente, o la maggior parte delle regioni ha fatto un documento di orientamento che non si è tradotto in niente, quindi si praticamente non ha fatto niente. Ok. Senta, è come una domanda così per concludere, come pensa che potrebbe evolversi il problema e il fenomeno dei blog, delle chat in futuro? Potrebbe trasformarsi, diciamo, potrebbe trasformarsi in una risorsa, in qualcosa di positivo? Sicuramente, quello che dicevo, cioè, tanto lì hai dei bacini di persone, tanto è un modo per intercettarle, no? Quindi persone che hanno difficoltà a gestire la propria immagine corporea, il proprio peso, si coagulano all'interno di questi blog, per cui ci si pone spesso il problema dell'intercettazione precoce delle persone che hanno questi sintomi. Lì c'è già un bacino che, se si riuscisse ad avvicinare, praticamente è un terreno encomiabile, si trasformerebbero in una grandiosissima risorsa, oltre ad essere quel luogo nel quale, parlandosi le persone, scambiandosi le esperienze, fanno un ambiente nel quale ci si potrebbe inserire con dei discorsi di psicoeducazione, quindi di orientamento, che potrebbero essere premessa a un eventuale trattamento successivo. Quindi potrebbero benissimo essere una risorsa. Ok. Ma poi mai vanno chiusi. incentrarci, parlarci, interloquire, eccetera, facilitare la domanda d'aiuto. Ok, grazie mille, veramente gentilissimo. Grazie mille per lei. Mi deve fare delle curiosità lei a questo punto. Sì, sì, mi dica. Dove apparirà? Ok, allora guardi, noi in realtà adesso questo è un progetto che stiamo facendo all'interno della scuola della fondazione. Il nostro obiettivo è quello poi ovviamente di pubblicarlo e nel caso la teniamo aggiornato ovviamente su quando e dove. Lei mi manda, lei ha l'indirizzo di posta elettronica? No, l'indirizzo di posta elettronica no. Allora adesso io glielo do, così lei eventualmente mi mette. Sì, sì, certo, mi dica. Di Umberto, sì. Nizzoli con la N di Napoli, Nizzoli, sì. Attaccato. Sì. Ok. Hotmail.com. Perfetto. Ok. Ok, perfetto, grazie mille. La teniamo aggiornata allora. Grazie mille per la disponibilità. A lei. Buona giornata. Salve.